il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Ho sempre disegnato. Io non sono andato a ballare da ragazzo. Io devo sentire quello che sto disegnando. In qualche modo devo soffrirlo. E allora che cosa succede? Quando non sono allegro, oppure quando non ho motivi per essere allegro, ma sono sereno, diciamo, la cosa che mi viene più facile è emozionarmi sulle cose che mi fanno stare male. Quella che avete appena sentito è la voce di Andrea Pazienza, un artista, un autore, un fumettista, un pittore, un visionario, un poeta, uno scrittore. E parliamo di lui anche perché ce lo ha chiesto un ascoltatore che si chiama Lino Cordiano di Saronno. Buongiorno Lino. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Buongiorno. E perché Andrea Pazienza? Per noi punk, prima di te, come tu dici in una bellissima canzone, Andrea Pazienza era chi metteva su disegno la vita di quell'epoca, degli alternativi di quell'epoca. Certo. Cioè noi, in quello che lui disegnava, i nostri amici, oppure quello che pensavamo esistesse al di fuori dei nostri piccoli paesini di provincia. Quello che volevamo essere, ma avevamo paura di essere. Avevamo paura di esserlo, perché il Zanardi, Massimo Zanardi di turno, era il bastardone che arrivava a tutto prendendo delle vie non proprio legali, no? Certo. Lino, sei stato gentilissimo, buona puntata. Andrea Pazienza è stato capace di spaziare da Disney a Möbius, da Caravaggio alle avanguardie del Novecento, con una carica vitale, un'energia senza uguali, un talento raro innato, un talento punk, come ci ha detto Lino prima, amante della vita eppure morto di overdose a 32 anni, un genio, sospeso tra disperazione e speranza. Perché lui era così, era una contraddizione vivente e gli veniva facile disegnare qualunque cosa in qualsiasi condizione, però gli veniva un po' più difficile vivere. Così qualche anno fa lo ricordava la madre, Giuliana, di fronte a centinaia di studenti di un liceo artistico. Io avevo paura di non essere all'altezza di Andrea come artista quando era un bimbo. Aveva iniziato a disegnare a 2 anni e ancora non sapeva parlare. Aveva sempre voglia di conoscere, di capire. Una volta, quando aveva 18 mesi, sua nonna aveva disegnato per lui una giraffa. Andrea prese la matita e corresse il disegno, perché la nonna si era dimenticata le cornette. Andrea Pazienza nasce il 23 maggio 1956 a San Benedetto del Tronto, la città della madre, però vive a San Severo, in provincia di Foggia. Secondo i racconti di famiglia, fin da piccolissimo lui mostra una predisposizione naturale per l'arte. Non sa ancora parlare, ma disegna già benissimo, tanto che il primo disegno vero lo fa a 18 mesi, un orso. La sorella ricorda che le prime parole che ha pronunciato sono state carta e matita. In famiglia Andrea non è il primo artista, il padre Enrico, professore di educazione artistica, è un pittore che ha anche una certa fama in Puglia, è per questo che Andrea cresce tra le matite, i libri d'arte, le tele, i pennelli, i colori. Il padre intuisce subito le doti del figlio, del ragazzo, lo vorrebbe vedere un pittore famoso, forse vorrebbe che il figlio diventasse quello che sarebbe voluto diventare lui, secondo la mentalità dell'epoca. Infatti l'arte vera è la pittura, quella fatta con le tele, le tavolozze, non certo il disegno che piace a Andrea, cioè le tavole, i fumetti, quella era ancora considerata arte di serie B. E lui è un bambino vivace, intelligente, pieno di vita, scapestrato tra le dita, ha sempre una matita, la sua vitalità è tutta nei suoi disegni, insomma la sua strada è già segnata, il suo talento è riconosciuto da tutti. Dopo le scuole medie i genitori lo iscrivono al liceo artistico, però la scuola è a Pescara, così Andrea, che ha solo 13 anni, lascia San Severo e la sua famiglia. Si trasferisce a Pescara, vive nel convito dei gesuiti, frequenta l'artistico Misticoni, dove conosce Tanino Liberatore, che è un suo compagno di scuola, il futuro creatore con Stefano Tamburini di Rank Xerox, per cui pazienza disegna il personaggio della ragazzina Lubna. Gli anni del liceo a Pescara sono fondamentali per Pazienza, perché lui non è un ragazzino facile. Al convito dei gesuiti organizza scherzi che peraltro finiranno un po' rielaborati nei fumetti degli anni successivi. E poi però sente fortissima la mancanza della sua famiglia. Insomma, in quegli anni di piena adolescenza, senza il contatto con i genitori, stringe un legame molto intenso con uno dei suoi professori, che si chiama Sandro Visca. Ed ecco lo stesso Visca come lo ricorda. Lui era l'insegnante di discipline pittoriche a Pescara. Non avevo mai visto un ragazzo della sua età disegnare con tanta libertà tecnica e con tanta capacità immediata su qualsiasi cosa. A 16 anni Andrea aveva una conoscenza di tutta l'anatomia animale e umana a memoria. Lui, quando metteva un pennarello su un foglio, lo staccava quando poi aveva finito il disegno. Ma la cosa impressionante era anche la sua velocità esecutiva. Tutto questo poi era legato a un aspetto che era la sua ironia, il suo sarcasmo. E i primi tempi che è stato mio allievo, lui si limitava soprattutto a delle caricature. Andrea aveva una necessità di esprimersi velocemente e dimostrare velocemente e scrivere velocemente quello che pensava. Eh sì, era tecnicamente bravissimo, veloce, capace di lavorare in qualsiasi condizione, era ironico, era in grado non solo di disegnare ma di creare storie e personaggi, di fare caricature azzeccate e feroci con pochi tratti. Insomma, tutto questo e tanto altro era Andrea Pazienza a 16 anni. E prendendo di mira proprio il suo professore Sandro Visca, realizza le sue prime tavole, una storia intitolata Don Viscotte della Mancia, in onore del suo insegnante, che naturalmente è il protagonista e viene disegnato nudo. Poi Visca appare anche in pento, tale addirittura in alcuni quadri di Pazienza. Quando non disegna, Andrea, che intanto è diventato un ragazzo alto, atletico, va in palestra e si dedica alle arti marziali. Però la passione per l'arte lo divora, è attratto dal Caravaggio, legge libri, ama il cinema. In quegli anni di formazione ha fame di vita, anche se l'idea della morte è sempre con lui, tanto che dipinge il quadro Apaz è morto, che appende nella sua camera nella casa di San Severo. Finito il liceo a Pescara, sceglie il DAMS e va, come tanti, a Bologna. Ecco quello che racconta in un'intervista dell'87. Ho fatto il liceo artistico a Pescara 4 anni. E poi ho dovuto sostenere un altro esame, un corso integrativo di un anno per poter accedere all'università. Mi sono iscritto al DAMS, che non ho mai finito. Mancano due esami, questo è l'assurdo. Avere uno è fondamentale. Ad onore a 60 anni. Chi lo sa se ci sarà il DAMS quando io avrò 60 anni. Chi lo sa se ci sarò io. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 74 e Andrea Pazienza arriva a Bologna, si iscrive al DAMS, a un nuovo corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. È un esperimento, però attira docenti come Umberto Eco, Squarzina, Gianni Celati, Salvatore Veca, studenti come Pier Vittorio Tondelli, oppure i futuri componenti del gruppo degli Schiantos, Fricantoni in testa, Carlo Mazzacurati. Il primo periodo bolognese per Andrea significa vivacchiare nella casa di via Emilia Ponente 223, condivisa con altri tre studenti pugliesi fuori sede come lui. L'occupazione principale dei quattro è la sala biliardo sotto casa, e proprio l'appartamento e il bar compaiono in molte tavole successive di Pazienza, nelle storie di Pentotal, in Pompeo. Dopo due anni di questa vita però qualcosa cambia, intanto perché Andrea ha bisogno di soldi, così disegna tavole, crea storie a fumetti che vende addirittura alla celeberrima, soprattutto in quegli anni, rivista Linus. E poi Bologna in quegli anni è una polveriera, il periodo delle case occupate, delle prime radio libere, del movimento studentesco. Tutto ruota attorno alla fabbrica dei sogni, l'appartamento occupato battezzato tra un fabbrica, appunto, Radio Alice, la contestazione, le manifestazioni, soprattutto le droghe, la sperimentazione di tutte le sostanze stupefacenti, prime tra tutte l'eroina. E nel 77, pazienza, con Filippo Scozzari, Stefano Tamburini, Massimo Mattioli, Tanino Liberatore, dà vita alla rivista Cannibale. Sentiamo come lo ricorda Renato De Maria, amico di Pazienza, regista del film Paz. L'audio è tratto dal documentario Antistoria del fumetto italiano. Quando l'ho conosciuto io era una rock star proprio. Cioè, oltre ad avere questo talento incredibile nel disegno, nel racconto, nel linguaggio, eccetera, era molto simpatica, era una furia vivente. Io appunto la prima volta che l'ho vista, è entrato dalla porta, aveva una specie di chierica, perché aveva fatto una rissa la sera prima, si era menato con non so chi, era cascato per terra, c'era, era tutti i capelli rasati, con una patacca qua gigantesca, un occhio nero, è entrato con un Olivetti sotto braccio, ha cominciato a parlare con me, con Uber, che era un altro data fabbrico, con quelli di Gas Nevada, eccetera. Si è buttato per terra su sta moquette lens, ha cominciato a scrivere i testi di una delle avventure di Pentotal, e intanto continuava a intrattenere discorsi con tutti. Appunto, sono gli anni di Pentotal, dei lavori per la rivista Linus, il supplemento Alter Alter. Lui è un vulcano, l'abbiamo appena sentito, non si ferma, crea in continuazione, comunica, scrive storie, è un autore estremamente prolifico. In un'intervista dell'87 a Carlo Romeo, direttore di Teleroma 56, Pazienza ricordava così l'incontro con Ugo Pratt nella redazione milanese di Linus. Io invece andai a Milano e portai questa storia che portai in via a Milano Libri, mi aprì Nicoletta Pardi, facendosi per Fulvia Serra, che faceva da filtro, e facendosi appunto per Fulvia Serra diede un'occhiata così molto, voglio dire, non disattenta, ma niente che arti disegni. Quando a un certo punto un capoccione fece ombra sui fogli, trasponendosi tra questi e la luce, ed era Ugo Pratt. Quando si parla di Ugo sempre suonano le campane, così, no, in effetti lui invece guardò questi disegni e disse: questo ragazzo in Veneto, però io non sono in grado di, disse, questo ragazzo merita, fatelo lavorare, vediamo che cosa sa fare. E alla redazione di Linus ricordano Andrea Pazienza come un ragazzo dalla creatività e dal talento unici. Presentava ogni volta 4-5 storie, tutte buone, alla fine ne consegnava un'altra ancora altrettanto valida. E apprezzato subito, arriva a guadagnare 120.000 lire a tavola. È uno dei disegnatori più pagati della casa editrice Rizzoli. Continua a vivere a Bologna, perché la sua è, deve essere, non può essere altro che una vita alternativa e underground all'interno della città e di quel periodo. Però inserisce i suoi amici e tutto quello che accade nelle sue tavole. I suoi amici sono, tra gli altri, i Gas Nevada e gli Schiantos. Fricantoni, il poeta, il performer, il frontman degli Schiantos, scomparso nel 2014, lo ricordava così. Era questa la cosa fantastica di Andrea, che era fulminante nelle sue intuizioni, come tutti i grandi artisti, no? Che erano sempre storie molto colte, secondo me, molto raffinate, molto profonde e molto movimentiste, che se ne dica, no? Magari adesso, non so, i frequentatori del movimento di allora, Andrea è sempre stato accusato di essere un po' ai margini, ma come tutti gli artisti non è che avesse l'obbligo di essere proprio dentro, al servizio del movimento, no? È stato accusato di essere un orecchiante, questa è una cosa che gli dava molto dolore, no? Perché lui si sentiva istintivamente parte del movimento, come John Lennon, che disse: sono un socialista istintivo. E nel marzo del 77 a Bologna la situazione precipita, gli scontri tra studenti e polizia sono sempre più duri. L'11 marzo viene ucciso Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, 25enne. A sparare è stato un carabiniere che viene arrestato e scagionato perché la sua condotta viene ritenuta legittima, cioè legittima difesa. Ecco uno stralcio di una trasmissione di Radio Alice. 11 marzo 1977, un carabiniere spara freddamente alla schiena di Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. Nel pomeriggio più di 7.000 compagni partono da Piazza Verdi e vanno in corteo contro la sede della Democrazia Cristiana. Qui cominciano gli scontri che per tutto il pomeriggio coinvolgono l'intera città. Alla sera all'università si tiene un'assemblea al Cinema Odeon, nel quartiere universitario ancora barricato. Il giorno dopo un corteo di studenti parte verso il comizio sindacale e gli viene rifiutata la parola dal palco. Nel pomeriggio 4.000 compagni all'università vengono caricati dalla polizia mentre si teneva un'assemblea. Anche qui fino a sera tardi gli scontri continuano. Insomma, sono giorni di grande tensione a Bologna. Arrivano studenti da tutta Italia. I funerali di Francesco Lorusso vengono vietati e nella zona universitaria il ministro dell'interno Francesco Cossiga, quello che sui muri compariva con le due S, tipo SS, invia dei mezzi blindati. Insomma, il movimento via via perde la sua spinta. Nel mese di settembre viene organizzato a Bologna un convegno contro la repressione. È l'ultimo atto del movimento studentesco del 1977. Il falco e il gabbiano. Andrea Pazienza, disegnatore, autore, artista, rockstar di quella Bologna di fine anni 70 che in qualche modo raccoglieva attorno a sé e attorno al Dams un sacco di menti pensanti, è stato definito un moderno Peter Pan, un eterno ragazzo, il cantore del 77, il profeta. Testimone di quel periodo, naturalmente i duri e puri del movimento lo consideravano un personaggio ai margini, mai votato appieno alla causa, e il motivo era semplice: quelli non avevano niente da fare, Pazienza invece aveva il suo talento da assecondare. Protagonista delle storie di Pazienza in quegli anni è Pentotal, uno studente fuori corso al Dams di Bologna, proprio come il suo creatore. Le vicende personali di Pazienza alias Pentotal si confondono in quelle collettive della storia di quel periodo. E poi c'è il personaggio Pompeo, che incarna la disillusione, la perdita della speranza dopo il fallimento del 77. Lui, Pazienza, affronta in pieno i temi, quelli della dipendenza dall'eroina che ha sostituito gli ideali politici, la morte, e le droghe tornano spesso nelle sue storie, anche in maniera più ironica. Il caso di Perché Pippo sembra uno sballato, Detective Mama, in cui svela alle mamme come scoprire se i loro figli fanno uso di sostanze stupefacenti. Vincenzo Mollica racconta così nel documentario Antistoria del fumetto italiano il suo amico Andrea Pazienza. Qui ha operato un'ulteriore rivoluzione, che è stata quella ancora più forte di raccontare la sua vita in forma di fumetto, di raccontare le storie che gli capitavano tutti i giorni, di raccontare la Bologna che viveva nel 77 in Pentotal, di raccontare la sua storia più dolorosa in Pompeo, di trasformare Zanardi in un personaggio di fantasia, ma che nasceva molto molto dalle storie che lui viveva personalmente. E semmai si può fare un accostamento poetico, mi piace sempre pensare che Andrea Pazienza sia stato il Rimbaud del fumetto italiano. E tra il 79 e l'81 Pazienza lavora in un altro settimanale satirico mitico per quei tempi, che era Il Male. Lì nascono le storie di Pert, il capo partigiano Sandro Pertini, il suo luogo sergente Paz, che poi è lo stesso Andrea. In quegli anni però non si dedica solo al fumetto, realizza manifesti cinematografici, tra cui per esempio quello per La città delle donne di Federico Fellini, con cui peraltro ha un rapporto ovviamente burrascoso, e poi i disegni per alcuni videoclip musicali, tra questi anche Milano e Vincenzo di Alberto Fortis. E con il gruppo di Cannibale, Tamburini Mattioli e Tanino Liberatore, e con Vincenzo Sparagna fonda un altro giornale destinato a entrare nella storia, Frigidaire. Nell'81, con la storia Giallo Scolastico, appare per la prima volta il personaggio di Massimo Zanardi, a cui Pazienza dà il nome di un suo amico tassista bolognese. con Zanardi e i fedeli amici Petrilli e Colasanti. Lui ha il nasone lungo, aguzzo, un gran ciuffo di capelli, Zanardi, è protagonista di storie violente, cattive, fatte di sesso, di droga. La caratteristica principale di Zanardi è il vuoto, l'assoluto vuoto che permea ogni azione. Vedete, un mondo nuovo si sta affacciando anche nell'immaginario di chi disegna storie e racconta la vita, e questo assoluto vuoto è quello che narra proprio Pazienza. Se le storie di Pentotal erano immerse nella spinta del movimento e della contestazione, nel desiderio comunque di cambiare le cose, con il personaggio di Zanardi, Pazienza disegna e racconta l'evoluzione negativa di una generazione tradita e senza speranza. Zanardi, Zanna per gli amici, i suoi compagni Colas, Ricco e Bello, e Pietra, lo sfigato, sono personaggi umani, sono sgradevoli, sono irritanti, si comportano al peggio, non hanno coscienza, non hanno rimorso, perché Zanardi è violenza e malvagità allo stato puro. Nei primi anni Ottanta Pazienza sperimenta tecniche diverse, insegna alla Libera Università di Alcatraz nei pressi di Gubbio, quella fondata da Dario Fo e diretta dal figlio Jacopo. Dal punto di vista creativo e lavorativo Pazienza è sempre un vulcano, ma dal punto di vista personale è sempre più alla deriva. E in più il rapporto con Betta, che è la sua fidanzata storica, è al capolinea. Lui non riesce a affrontare le sue fragilità, i suoi lati oscuri. Diventano difficili per lui anche le piccole scelte pratiche, quotidiane. Ed ecco le parole di Betta al secolo Elisabetta Pellerano, dal libro Vita da Paz di Franco Giubilei. Nel 1982 cominciammo a scricchiolare. Succede quando si cresce e due persone cambiano. Andrea era troppo attaccato a me e io avevo bisogno di sentirmi più libera. È così che cominciano dubbi e possessività. E lui era molto geloso e possessivo, di una gelosia che si manifestava anche verso i suoi amici. Io ero molto insofferente. Volevo che avesse più controllo, senso di responsabilità, affidabilità. Gliene parlavo, ma per lui era un problema irrisolvibile perché io mettevo in discussione la sua stessa natura, che era di vivere tutte le esperienze senza regole di sorta. A peggiorare la situazione ci si è messa l'eroina. Andrea ha cominciato a farsi sempre di più e la situazione fra noi si è avvitata sempre di più. In quel periodo accanto a Pazienza c'è anche l'amico Marcello D'Angelo, sceneggiatore di alcune delle sue storie. D'Angelo è per Paz una specie di guardia del corpo, pronto sempre a vigilare che Andrea non vada troppo oltre, però è anche un compagno di scorribande. Insieme vanno in giro per l'Italia, e quei viaggi, quelle esperienze, ma anche tutto il dolore di Pazienza in quel periodo finiscono nella storia il segno di una resa invincibile. I disegni sono di Pazienza, i testi di Marcello D'Angelo. Nell'83 Andrea prova a disintossicarsi, ma non ci riesce. È l'anno in cui Betta lo ha lasciato. Per lui è un dolore insopportabile che lo annienta. Così abbandona Bologna, va a Montepulciano. Nell'autunno dell'84 a Lucca Comics viene intervistato da Red Ronnie, appena saputo che Betta si è messa col suo migliore amico, il pittore Marcello Iori. Ho avuto una notizia che mi ha sconvolto molto, molto. Si apre un capitolo nuovo nella mia vita. Perché? Gesù, Gesù. Racconta le tue pene d'amore, dai. Due miei cari amici si sono lasciati, stavano insieme, si sono sposati 2 anni fa. Io sono stato al matrimonio con la mia ragazza, con la quale stavo da 5 anni. E insomma, e questo è già un fatto grave. Ma ancora più grave è che questo mio amico si è messo con la mia ragazza. Non so più niente di Bologna, perché tutto questo sono stato depositato a Montepulciano, altrimenti le cose non avrebbero potuto seguire il loro corso naturale. Cioè, la tua ragazza non ti avrebbe potuto piantare in questa maniera? No, voglio dire, mi aveva già piantato, una storia vecchia, io ancora soffrivo. Comunque, ora del resto, ragazzi, la vita è fatta a scale. C'è chi scende, c'è chi casca e si fa male. Pazienza è distrutto dalla notizia e intanto è al confino, a Montepulciano. Stare lontano da Bologna forse è l'ultima chance per riprendere in mano la sua vita e soprattutto per cercare di chiudere con l'eroina. E finalmente arriva una nuova opportunità. Si chiama Marina Comandini, è una illustratrice ed è per sua fortuna, un amore a prima vista, una storia travolgente. Insomma, l'anno dopo, nell'86, si sposano. Andrea è preso da mille progetti, però il suo fragile equilibrio viene sconvolto di nuovo perché l'amico fumettista Stefano Tamburini muore di overdose in circostanze che non verranno mai chiarite. L'eroina presenta il conto. Il cadavere di Tamburini verrà trovato dopo almeno 10 giorni dalla sua morte e tocca a Pazienza riordinare l'appartamento romano dove l'amico è morto. Poi prova a ripartire, lui lavora per Linus, per il supplemento dell'Unità Tango, per Zoot, la rivista diretta da Vincino, Comic Art, scrive, realizza copertine di dischi, insegna, collabora, anche se in modo non ufficiale, alla sceneggiatura del film Il Piccolo Diavolo di Roberto Benigni, che a Pazienza è dedicato. E nell'ultimo periodo della sua vita si dedica con passione alla storia. Infatti il suo capolavoro incompiuto si chiama Astarte, della storia a fumetti della campagna in Italia di Annibale, vista dalla prospettiva di Astarte, che era il cane di Annibale. La moglie di Pazienza, Marina Comandini, racconta così la nascita di quella storia. Lui era rimasto colpito da questo libro di Gianni Grandotto, la biografia di Annibale, che è veramente bello. E da lì è nato Astarte. Ovviamente voleva raccontare Annibale, ma ha scelto un punto di vista che fosse inusuale, come al solito, no? Tra l'altro l'amore per gli animali di Andrea era infinito, quindi non mi stupisce che abbia scelto un cane. Peraltro orbo, brutto, vecchio, pauroso. Nell'88 Andrea e Marina fanno un lungo viaggio in Brasile. Lui non è più dipendente dall'eroina, anche se non ha mai smesso completamente di usarla. Di ritorno dal Brasile lui fa tappa a Roma, ha bisogno di alcuni costumi di scena per Cavalli si nasce, che è un film di Sergio Staino in cui lui aveva avuto una parte. Ma la tappa a Roma gli è fatale. È qui che si procura la dose che lo uccide nel bagno di casa a Montepulciano sotto gli occhi della moglie e di un amico. L'ultima overdose. Altre 4 volte negli anni precedenti Pazienza era stato salvato in extremis, ma quella sera di giugno, forse come capita spesso nelle overdosi, la roba era troppo pura, cioè paradossalmente quando lo spacciatore è un po' più onesto e quindi taglia l'eroina con meno sostanze aggiunte, si muore. Così è accaduto a Andrea Pazienza, con tra l'altro il suo fisico che ormai non era più assuefatto all'eroina. Ai funerali partecipano amici, artisti, fumettisti, scrittori, giornalisti, musicisti, pittori. Ecco come lo ricorda David Riondino nel libro Vita da pazzi di Franco Giubilei. Era caldo, molto caldo. A San Biagio, la cattedrale fra i campi, c'era tanta gente. Il prete diceva qualcosa, parlava lentamente. Davanti c'era la bara, la vera cosa presente. Dire che sembrava impossibile è poco. Era tutto e niente. C'era lo scandalo di qualcuno che non ci sarà più, per sempre. Fuori, la disperazione cresceva. Un'ossessione che portava verso qualcosa. E infatti, qualcosa avvenne. Intorno, sulle colline intorno, c'era il sole limpido. Sulla chiesa, il cielo divenne scuro. E poi esplose una pioggia tesa, violenta, violentissima. Solo su di noi, sulla chiesa. E lo abbiamo riconosciuto nel segno di un'irresistibile, invincibile resa, di una potenza che sale, di un diventare altro, di un addio, di un saluto. Un temporale saluta il funerale di Andrea Pazienza, un uomo, un artista pieno di contraddizioni, di sofferenza, morto proprio quando sembrava avere trovato finalmente una seconda vita. Era talmente dotato che gli altri fumettisti, tra cui Milo Manara, che ebbe il coraggio di ammetterlo, lo invidiavano. Era un personaggio dai mille volti, uno che non si sarebbe mai adattato a una vita comune. E per ricordare Andrea Pazienza è con noi Franco Giubilei, che è un giornalista della Stampa, autore del libro Vita da Paz. Buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, abbiamo raccontato, siamo quasi alla fine, abbiamo raccontato la storia di Pazienza, personaggio eclettico con tante facce, però qual era secondo te la caratteristica principale di Pazienza rispetto agli altri artisti del suo genere? Secondo secondo me quello che lo rende particolare, quello che ha fatto sì che instaurasse un rapporto molto molto diretto con i suoi lettori, era che i lettori potevano vedere la loro vita nelle storie o pezzi della loro vita nelle storie raccontate da Pazienza, perché lui era molto in sintonia col suo pubblico. O addirittura raccontare cose, cioè personaggi che noi non avevamo il coraggio di incarnare, e quindi in qualche modo venivano esorcizzati da leggerli nei fumetti di quel tipo, no? Sì, ma guarda, io ho in mente una cosa che mi capitò quando ero studente, mi capitò di leggere insieme ad amici una storia di Pazienza che si chiama L'Appuntamento. Sì. Sono poche tavole, molto umoristiche, e ci si identificava in quello che lui raccontava, perché certo, i tic, le debolezze, lo slang, il modo di parlare, era molto bravo anche nell'aver elaborato un linguaggio che rispecchiava il modo in cui i ragazzi parlavano allora. Certo. Senti, Franco, lui diciamo che da un lato era un dandy come tutti i punk, i post-punk di quegli anni, e amava la forma fisica, però era anche dipendente dalle droghe e quindi incline all'autodistruzione. Come convivevano in lui queste due anime apparentemente opposte? In effetti l'enigma, insomma, la chiave del personaggio Andrea Pazienza era quello che era questa, cioè in lui convivevano degli elementi apparentemente inconciliabili, per cui è una persona molto aperta alla vita, molto disponibile e, come si dice, con, secondo me, brutta espressione, anche solare, se si vuole, però questa capacità di comunicare, quindi molto positiva, molto luminosa da una parte, e dall'altra quasi a compensare una parte invece molto più oscura. Non so se aveva a che fare anche con un minimo di depressione, adesso buttarla sul lato, certo, medico, soprattutto nel caso di un artista. Con le sue ossessioni anche, le donne, sì, l'eroina. Allora l'eroina era una condizione che accomunava quell'ambiente di cui parlavamo, certo, prima. Per darti l'idea, insomma, a me ha raccontato un suo amico e frequentatore della Tron Fabric, che poi è uno che avrebbe fondato i Gaz Nevada, che a finire degli anni 70, inizio anni 80, faceva figo uscire per Bologna con la siringa che faceva capolino dalla tasca del giubbotto di jeans. Certo. Cioè, quindi farsi di eroina era come un tratto distintivo, ancora non c'era neanche forse la percezione della pericolosità. Sì, certo. E comunque riguardava molto certi ambienti. E quindi non è stato neanche così strano che lui abbia cominciato a fare uso di questa sostanza. Poi il motivo profondo attiene probabilmente... C'era l'Urid, insomma, c'era anche una iconografia anche allettante di fronte all'eroina alla fine degli anni 70. Esatto, no, ma poi la cosa che poi lui ha fatto, che ha compiuto con le sue storie, è di fare delle droghe anche un elemento narrativo. Poi in Pompeo questo ha toccato l'apoteosi, perché lì si è raccontato proprio nella sua vicenda di eroina proprio, e negli aspetti più cupi oltretutto. Però ben prima di Pompeo, fin da subito la droga è molto presente nelle sue storie, e lui si è costruito anche un'immagine di rockstar maledetta in questo modo. Che non poteva prescindere da quello. Franco Jubilei, ti ringrazio infinitamente. Grazie a te, presto. Grazie a voi. Ciao. A presto. E noi ogni giorno abbiamo scelto di raccontare vite straordinarie. Quella di Andrea Pazienza è stata breve, ma veramente straordinaria. Se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure interagite sul sito di Radio 24, oppure venite a trovarmi sui vari social miei o della radio del Falco il Gabbiano, e poi ricordate il podcast per le puntate che vi siete perso, oppure per quelle che volete risentire. Insomma, se mi cercate sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.